Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, le rare volte che di mercoledì non si gioca è bello conversare di pallone. Ora, non è una novità che di lontano spesso ci si veda meglio, perché si perdono magari dei particolari, dei dettagli, ma si coglie molto più il quadro d'insieme. Per esempio, chissà come sarà il calcio italiano visto da Londra e in particolare da Marco Tardelli. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Senti, visto da lì, che cos'è in particolare che non funziona? Ma non funziona adesso, è un anno anche particolare, è successo che tutte le squadre stanno rischiando di andare fuori. Certamente il calcio italiano non diverte più come diverte magari il calcio inglese, il calcio spagnolo, e ci sono meno pressioni probabilmente su tutti, sui giocatori, sugli allenatori e anche sulle società. Insomma, io credo che le società dovrebbero un attimino guardarsi intorno, e anche i presidenti, i dirigenti, e capire come mai funziona in altre parti. E in Italia, insomma, mi sembra che il pubblico sia abbastanza calato negli stadi. Come no? Questo è uno dei fenomeni più gravi, sicuramente. Secondo te stanno peggio i club o sta peggio la nazionale? Cioè, in altre parole, funziona meglio o peggio la Lega o direttamente la federazione? Ma io credo che funzioni meglio o peggio quelli che vincono. Insomma, la federazione adesso sta facendo bene perché ha una squadra sana. Io ritengo che non sia poi così valida la nostra federazione, però la squadra sta facendo bene, e di conseguenza ha un ottimo allenatore, una discreta squadra, e tutti sono contenti. Però credo che problemi ne abbiamo sia in Lega che in federazione. Sì, senti, Prandelli è stato tuo ex compagno alla Juventus per anni, quindi voglio dire, hai un buon rapporto, hai una buona memoria di lui, insomma. No, io ho una buona memoria. Quando ci sentiamo, ci vediamo, ritorniamo ai vecchi tempi. Ha fatto bene Cesare, sta facendo bene. L'importante è che gli si dia la possibilità di lavorare con serenità. È questo che manca probabilmente in Italia, la serenità da parte di tutti. È difficile poter costruire qualcosa di importante se quella non c'è. Sì, leggevo stamane, adesso salto in un club, ma insomma leggevo stamane che Giggs, che sta per compiere 20 anni al Manchester United, non ha mai cambiato allenatore, no? Perché ha sempre avuto Ferguson. Da noi, che dici? È una cosa, cosa particolare quella. Sì. Anche qua in Inghilterra si sta cambiando, perché cambiano non spesso come noi, ma hanno già cambiato diversi allenatori, Serie B, Serie C e Serie A. Cosa che non avveniva qualche anno fa. Ferguson è un caso particolare, c'è anche Moyes, ci sono tanti allenatori che stanno molto tempo nelle loro squadre, però quella del Manchester è una cosa strana, a parte, diciamo che Ferguson per i primi 7 anni non ha vinto niente e comunque è rimasto lì. Questa è una cosa, in Italia 7 anni non gli danno nemmeno a Trapattoni, è vero. O a Capello, a nessuno. Io volevo ricostruire con te questa vicenda juventina, che è quella che veramente fa discutere l'Italia in questo momento. Nel 2006 tu fosti chiamato al capezzale della Juve dopo quello che era successo, però capisti abbastanza in fretta che i primari convocati a sto capezzale erano troppi. Fosti chiamato, no, ci siamo chiamati. Ci siamo chiamati, perché non è totalmente giusto dire che loro mi hanno chiamato, ci siamo avvicinati tutti e due. Sì. E va bene, quello fu l'approccio, nel senso che si trattava di accorrere allora, no? a una situazione, in una situazione drammatica. Ha sbagliato più allora la Juventus ad avere tutta quella fretta, oppure sta sbagliando oggi che continua a rifondare ogni anno? Fretta nel senso che non bastò nemmeno che Deschamps comunque, o che la squadra fosse tornata bene, molto bene subito in Serie A, nonostante le difficoltà che c'erano state. Ma la Juve sarebbe tornata in Serie A perché era una squadra talmente superiore alle altre che non ci sarebbero stati problemi. Insomma, io credo che la Juventus meritasse di tornare in Serie A. Certo. Io credo che in quel momento lì, prima di tornare in Serie A, cioè quando c'è stata la dichiarazione di chiarezza, la dichiarazione di siamo una squadra pulita, eccetera, andava rinnovata la squadra innanzitutto. Sì. Ma vendendo dei giocatori importanti dai quali si poteva recuperare un capitale importante, mm-hmm, e ricostruire una squadra di giovani importanti, non giovani presi così, faccio l'esempio dell'Arsenal. L'Arsenal compra giovani, li paga anche, sì, ma costruisce dei giocatori importanti, mm-hmm, ma costruisce e ha costruito, mm-hmm, probabilmente non vince tantissimo perché secondo me c'è un piccolo errore dove si evita l'esperienza del giocatore, ma invece bisogna avere anche giocatori esperti che possono far crescere questi giovani. Però giocano bene, i bilanci sono sani, riescono ad arrivare in Coppa dei Campioni, riescono a comunque essere sempre lì. Allora hanno fatto una finale di Carling Cup che hanno perso, però insomma erano in finale, adesso vanno in Barcellona, sono secondi in campionato. Come no? E hanno costruito abbastanza bene, e questa è la cosa che avrebbe dovuto fare, credo, la Juventus. Allora, cioè fare una specie, vediamo se ho capito, tornare più o meno all'inizio degli anni 70, quando la Juventus voltò completamente pagina e cominciò a costruire una generazione di nuovi. I primi furono i Causio, poi arrivò Zoff, poi arrivarono i Tardelli, i Scirea e i Gentile, e quindi anno per anno aggiungere gli uni sugli altri dei giovani di grande qualità. Certo, ha sempre fatto quello. La Juventus è arrivata a vincere proprio per quello, aveva un presidente che, col quale ho litigato, lottato, ho amato, odiato, tutto, però era un grande presidente e l'ho sempre riconosciuto. Lui mi prende in giro quando mi metteva i contratti in bianco sotto, però insomma era un grande presidente. Secondo me l'errore è stato lì, è stato di non vendere qualche giocatore anche importante, di non fare questo sacrificio per paura dei tifosi, per paura di non ritornare, sì, in Serie B, per paura di troppe paure, e troppe paure hanno portato a magari a fare poi degli acquisti un pochino avventati. Qualcosa c'è in questa squadra, probabilmente manca la serenità, probabilmente c'è una grande responsabilità per i giocatori che arrivano lì in questo momento, no? Perché non sono più giocatori che arrivano in un ambiente abituato a vincere. Una volta arrivavi alla Juventus, c'era... Respiravi. Sì, respiravi vittoria, respiravi cose importanti, come respiri nel Milan, perché il Milan, certo, è stato nell'Inter, in queste squadre. C'era questo, e allora venivano tutti trascinati. No, anche i giovani, sono arrivato giovane, ero trascinato dagli Zoff, dai Furino, da tutte le buone insegne, con un grande rispetto. Io sono arrivato a Juventus, davo del lei a Zoff. Insomma, certamente lui mi ha detto subito se volevo un calcio nel sedere. Però, sì, vabbè, però intanto l'approccio era quello. Torniamo in compagnia di Marco Tardelli, collegato con noi da Londra. Tu di recente hai detto, mestamente direi, no? Anche se era scritto, ma insomma si capiva l'accento, ma questa non è più la Juve, è solo una squadra con la maglia bianconera che non ha più lo stesso carisma. C'era molto dispiacere in quella frase, mi pare, che fosse più dolente che polemica. C'era molto dispiacere perché quando io sono arrivato nel 2006 ho cercato di fare qualcosa, ma mi è stato impedito tutto. Mi è stato impedito tutto, mi è stato impedito di capire, mi è stato tante cose. Tanto è vero che io dopo sei mesi volevo andare via e mi chiesero di rimanere, e poi alla fine me ne andai. Sembrava che io fossi arrivato lì per cercare di entrare nel settore tecnico o qualcosa che non mi interessava assolutamente. A me, io volevo un rapporto società squadra, no? E qualcuno che capisse di calcio, perché io penso di poterne capire un pochino, visto che ero l'unico nel consiglio di amministrazione, certo, che ero stato nel calcio, e potesse essere d'aiuto, cosa che poi ho riscontrato quando Deschamps è andato via e ha fatto una dichiarazione dicendo forse se avevo ascoltato Tardelli era meglio, e questo mi ha dato grande gioia ma anche grande tristezza, perché certo, poi è andato via. Senti un po', quando tu dici mi è stato impedito, è chiaro, adesso non è il caso di mettersi qua a diventare volgari, però parliamo di Blanc, parliamo di Cobolli, parliamo di... No, parliamo in generale, perché non c'è uno, l'altro, io poi era un sistema. Non avevo nemmeno più voglia di andare al consiglio di amministrazione, non mi divertivo. Ecco. Io quando non mi diverto a fare le cose, se mi diverto le faccio con passione, se le faccio per fare non mi va bene. Dunque, io ti elenco i 14 acquisti, a proposito di competenza territoriale specifica, della Juve da luglio a oggi, e vado in ordine di formazione. Allora, Storari, Motta, Bonucci, Barzagli, Traoré, Crasi, Ciaquinani, Pepe, Quagliarella, Martinez, Toni, Matri. La domanda è, dopo ti dico quanto sono costati, anche se lo sai meglio di me, quanti sono da Juve? Ma guarda, il discorso del sono da Juve, no? Secondo te, ora io non faccio nomi, ma abbiamo avuto noi molti giocatori quando nella Juve degli Zoff, dei Buoninsegna, dei Benetti e dei Bettega, perché Bettega era uno dei giocatori più importanti, di tanti altri grandi giocatori, dei Brini, Platini, Platini, Boniek, Rossi, eccetera, mettiamo tutti Cabrini, eccetera. Ma voglio dire, dei giocatori che probabilmente non erano all'altezza della situazione, tolto questi che ho elencato, non erano all'altezza della situazione della Juventus, ma che servivano per la Juventus, perché c'erano dei momenti in cui buttavi dentro due giovani o buttavi dentro dei giocatori che magari tutti sapevano che non era all'altezza della situazione, ma li trascinavamo, li portavamo avanti e non si sentiva la differenza, anzi giocavano. Giocavano bene lo stesso. Ma perché c'era lo zoccolo vostro, però. Tu conosci i giocatori che ci sono stati, a volte qualcuno magari era al di sotto delle aspettative della Juventus, io sto parlando certo, dei buoni giocatori, ma che erano un pochino al di sotto e comunque andavano bene. Senza sminuire nessuno, io voglio dire che questi giocatori possono stare alla Juventus, tutti questi, non ci possono stare perché sono costati tantissimo alcuni giocatori, e non va bene, ma possono stare alla Juventus, ma aiutati da grandi giocatori. Quindi... Io ti faccio un esempio, c'era Platini, io ero un ottimo giocatore che aiutavo Platini e Platini aiutava me, però io non ero all'altezza di Platini. Non avevo le qualità di Platini, ne avevo altre, però tutte e due ci aiutavamo e riuscivamo a fare qualcosa. Ecco, io ho fatto Platini e me potevo fare, un giocatore un pochino al di sotto. Credo che sia questo il problema. La Juventus non ha comprato grandi giocatori, ha comprato degli ottimi giocatori, ma non ha comprato grandi giocatori. È mancato quel rinnovamento di cui tu parli anni prima. Un problema, perché adesso i grandi giocatori non vanno alla Juventus. Questo è un altro problema serio. Anzi, forse se pensiamo a Di Natale l'estate scorsa, questo magari è il problema principale. Perché assolutamente, però credo che Di Natale sia stata una scelta di vita, avrà magari in futuro un qualcosa Udine. Sì, certo. È una scelta rispettabilissima, per carità. Rispettabilissima. Prima ha tentato Virdis di rifiutarsi di andare alla Juve, però poi ci è andato. Cioè, Boniperti è partito con l'aereo e quando Boniperti voleva comprare qualcuno lo comprava. Andava a prendere. Come fa il Manchester, come fa il Nice, certo. come fanno tutte queste grandi squadre. Però il problema adesso della Juventus è che se si arriva settimo, ottavo, nono, eccetera, in campionato, e nessuno vuole andare a Juventus, non partecipa alle coppe, ma non che partecipi alle coppe, deve partecipare alla Coppa dei Campioni, perché se io voglio acquistare Gerard non ci va. È una situazione tosta. Senti, c'è un altro aspetto che probabilmente deriva da quello che che ci stai raccontando, però così volevo capirlo da te. Perché l'anno scorso Diego, facciamo un nome, e quest'anno Krasic, facciamo un altro, hanno acceso grandi entusiasmi e sono durati 2, 3, 6 giornate, non lo so, nel senso dell'entusiasmo popolare, no? E poi anche loro, che pure dovevano essere i grandi trascinatori, si perdono. Perché? Allora, tanto per cominciare, io credo che Krasic abbia fatto benissimo e in questo momento sia stanco, e essendo un attimino stanco, essendo calata la forza fisica, cala anche un pochino la qualità. Se non è aiutato e coadiuvato da altri, è difficile che possa sostenere una squadra. Ecco, Maradona sosteneva una squadra, Platini sosteneva una squadra. Krasic è un ottimo giocatore di fascia, ma che non può sostenere la squadra. No, è la squadra che deve sostenere lui certo. È l'unico importante in questo momento, capito? Sì. È totalmente diverso. Ma il Krasic io l'avrei comprato perché è un buon giocatore, anche a Mauri avrei comprato perché è un buon giocatore. Certamente non avrei speso 25 milioni di euro. Questa è abbastanza normale. Cioè, qui c'è Brent che hanno comprato dal Sunderland, è uno che fa 20 gol, 23 gol l'anno, e l'hanno pagato 18 milioni di euro, ma l'ha già pagato tanto. Torres a 50 milioni di euro, ma è Torres. Sì. Poi stia andando bene o male, questo non è un problema, però Torres ha una carriera dietro importante. Sì, no, non lo valuti sull'ultimo mese, un giocatore di quella caratura lì. Comunque, e poi Amauri è andato a Parma, sta facendo benissimo. Cioè, sono tutte cose che si potevano anche fare, ma se ci avevi due o tre grandi giocatori che potevano cambiare questa squadra, altrimenti non... Cioè, è difficile. Pepe lo puoi comprare. Sì. Pepe lo puoi comprare. Lo puoi comprare un pochino meno, ma è un giocatore che aiuta la squadra, che può aiutare la squadra. Ma questi sono giocatori che poi... Ora, io non vorrei offendere nessun giocatore, questo premetto, per me sono tutti validi. Non credo, certo. Ma sono giocatori che devono avere un grande vicino da poter aiutare, capito? Sì, che gli faccia da riferimento, che gli dia un... Certo, se no non ti possono cambiare la squadra. Perché non dimmi hanno... un giocatore, io ti faccio dimmi un giocatore in questo momento che può cambiare la Juventus. Che cambia la Juventus? Si sperava tutto in Matri, ma quando è stato acquistato Matri, insomma, cioè non hai acquistato Torres o Drogba. Hai acquistato Matri, uno senza esperienza internazionale, per l'amor di Dio potrà diventare un grande giocatore, ma Matri si acquista quando tu c'hai già un grande centravanti, c'hai i Trezeghe, c'hai i Trezeghe, allora acquisti Matri come riserva. Sì, no, è talmente chiaro quello che dici che è disarmante e credo che tutto il popolo bianconero in ascolto, che come sempre ha la rappresentanza più folta in Italia, starà pendendo dalle tue labbra. Ti devo chiedere un altro intervallo. Per esempio, ora mi sembra di offendere Matri, ma non è così. A me piace Matri come giocatore, no? Per esempio, Matri era un giocatore da comprare se fosse stato in quel periodo, quando noi siamo andati in Serie B. Quello era il momento, non adesso. Era il momento da comprare Matri, certo. Giocatore che poteva darti una mano perché era un ottimo giocatore, ti avrebbe comunque portato in Serie B, in Serie A, insieme alla squadra che riusciva a supportarlo e via. Ma adesso mi sembra difficile, se non c'è un grande giocatore davanti, dove io credo che Zola abbia imparato da Maradona tantissimo. Uh-huh. E Zola era stato comprato da Napoli quasi come riserva di Maradona, no? Sì, come alternativa da crescere, da sperarci. È diventato un grandissimo giocatore. Certo. Cioè, aveva già delle grandi qualità, per l'amor di Dio, non è che un giocatore può cambiare così. Però, insomma, Zola si metteva lì a guardare Maradona in allenamento. Questa è una cosa detta da lui, non da me. No, difatti. Siamo ancora collegati con Londra e con Marco Tardelli, che sta esaminando in dettaglio la questione l'affare Juventus. Se Andrea Agnelli ti chiedesse oggi un consiglio, da che parte cominceresti? A parlare con lui. Comincerei a parlare con lui. Io, la Juve è sempre stata il mio sogno. Io quando sono arrivato alla Juventus nel consiglio di amministrazione speravo e immaginavo una cosa diversa, non è accaduto, è finita la mia storia, basta. No. Adesso non mi sento in grado di dar consigli a nessuno, insomma se mi chiamasse ci farei una chiacchierata, ma è difficile anche poter dar consigli se non poi andare contro qualcuno e non è bello. Questo lo immagino. Senti un po', riambientiamoci invece sulla, su Inghilterra, su Irlanda. Per esempio, come sta il vecchio Trump? Il vecchio non è perché vecchio sarà io non ho mai visto uno così. Infatti in Irlanda si meravigliano che lui sia ancora in campo a insegnare. Perché sbaglio o ne fa 72 tra poco, tra un paio di settimane? Sì, sì, sì. 17 marzo Antici. Che è St. Patrick in Irlanda e quindi compleanno, cioè, è una coincidenza incredibile. Doppia festa nazionale, ma lui continua a correre per il campo, a allenare esattamente quando era come quando era giovane? Uguale. Siamo lì a correre per capire alcune cose. Ci siamo abbastanza riusciti, adesso abbiamo un po' di problemi perché ci mancheranno due giocatori molto importanti contro la Macedonia, vediamo. Senti, state comunque, è una fase di rinnovamento mi pare per l'Irlanda anche, no? Cioè state cercando di ringiovanire un po' dopo... Beh, noi quando siamo arrivati abbiamo cercato già di ringiovanire, sì. Abbiamo inserito molti giovani, adesso come ho detto ci mancherà il portiere titolare, Shay Givens che è un grandissimo portiere, probabilmente anche Robbie King, insomma dobbiamo per forza andare a cercare qualche giovane, ma ce l'abbiamo qualche giovane interessante, certamente ci vorrà un attimino di pazienza, però che purtroppo non abbiamo perché avendo le qualificazioni noi se perdi sei fuori, se perdi una partita cominciano già dei problemi, però insomma qualche giovane, diciamo una quindicina di giovani li abbiamo inseriti in questa rosa e ci stanno dando quello che abbiamo cercato di capire in loro. Senti Marco, concludendo, a me rimane una, insomma tu sai che in tutti questi anni ho avuto una lunga frequentazione e un'amicizia profonda con Enzo Berzo, tu sai qual era uno dei suoi cruci immagino, era quello che nel 2000 lui si arrabbiò tantissimo con te, ma davvero, ma si arrabbiò come si arrabbiava un padre, sì, con il figlio prediletto qua... perché raccontala te allora. Certo, perché era andato all'Inter, ma purtroppo era una cosa abbastanza forzata, cioè, allora io ero in nazionale, avevo fatto bene, devo dire, perché avevo vinto l'Under 21, l'Europeo, certo. Stavamo ricostruendo la squadra, eccetera. E nella ricostruzione della squadra avevo avuto un po' di problemi con la dirigenza, perché c'erano state delle dichiarazioni da parte di qualche dirigente di una squadra, la mia squadra. Parliamo della Juventus. Perché io avevo chiesto dei giorni in più per gli allenamenti, perché era la prima volta che radunavo la nuova Under 21, sì. Avevo chiesto due o tre giorni in più per fare degli allenamenti, per capire, per vedere alcuni giovani che erano usciti, fra l'altro c'era Cassano, era uno di questi, e mi avevano attaccato sui giornali dicendo determinate cose. Allora io decidi di parlare un attimo con un dirigente della federazione e invece di darmi una mano lui mi fece ancora peggio. E allora cominciai a capire che non c'era più spazio, non c'era nessuna voglia di portare avanti un discorso che mi era stato fatto da Nizzola, non per colpa di Nizzola, no, ma un discorso di prospettiva, insomma. Nizzola era una bravissima persona, uh-huh. Uh-huh. La storia era che il discorso con Nizzola era un giorno che smette Zoff, entrerai tu se fai bene, eccetera, eccetera. Io, meglio di così, avevo vinto subito nel 21, stavo facendo bene, eccetera, avevo vinto il torneo dell'Under 20, insomma. Era una buona situazione, poi mi sono accorto che non era così, c'era stato anche un litigio fra me e Nizzola che mi vergogno di raccontarlo, perché Nizzola è una persona eccezionale, veramente una grande persona che probabilmente non avrebbe dovuto essere nel mondo del calcio. E comunque si misero a posto le cose, io rimasi nell'Under 21, Trapattoni andrò in Nazionale A. Ti ricordi? Come no? Subito dopo, nel 2000, subito dopo che Zoff non era riuscito a marcare Zidane, no? Sì, Più o meno. Sì, più o meno. E di conseguenza poi quando mi è venuto Moratti a cercarmi, io ero in contatto con Moratti perché avevo lavorato con lui nel periodo del mondiale eccetera, altra ottima persona, e di conseguenza niente, è andata così. decisi di andare. Basta, e il Veggio ne fece un'altra piccolissima malattia sentimentale, perché lui era un sentimentale inguaribile. Da Londra l'immagine dell'Italia, e adesso non parlo di sport, battutina finale, è in crescita anche lì come nel resto del mondo o come, È in crescita. È in crescita. Vuoi che ti dica che è in crescita? Sì. No, domando. Al Borsino come siamo? Non siamo. Beh, le ultime cose che sono accadute non sono state proprio le più entusiasmanti. Vedi te. Ho capito cosa ti riferisci, vedi se è possibile avere una credibilità. Sì. Bene, ne parleremo la prossima volta. Ciao Coyote. Ciao, grazie. Beh, non è semplice selezionare tra i tanti messaggi che sono arrivati. Faccio qualche esempio. Il concetto espresso da Tardelli sui giocatori da Juve o meno è perfetto, scrive Roberto da Arezzo. Un altro Roberto da Belluno esemplifica. Evra era una riserva del Marsala, ma quando arrivò a giocare accanto a Ronaldo, Giggs e gli altri del Manchester sembrava Roberto Carlos. Luigi da Torino dice: sentire Tardelli in questo momento è per noi bianconeri il regalo più gradito. Franco da Cantù e scrive invece: vorrei salutare un pilastro che ha reso la Juve una fortezza nel passato, grazie Tardelli, ora siamo una baita da ristrutturare. Mi sembra un'immagine molto ma molto felice. Segnalo anche che da Cattolica e Riccione mi arrivano messaggi abbastanza disperati di ascoltatori che hanno problemi di ricezione, così come da Palmanova in provincia di Udine. Dato che sono due fortezze, per usare l'espressione dell'ascoltatore di prima, giro immediatamente queste segnalazioni ai responsabili delle frequenze, come siamo abituati a fare ogni volta che c'è un problema di questa natura. Giancarlo ha chiamato dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti. Ma io volevo un attimo, uscivo un attimo dalla cosa del giorno. Per quanto riguardava ieri, i problemi fra Patto e Ibrahimovic. Sì. Un suo pensiero. Secondo me finale uno dei due bisogna toglierli. Io sono un simpatizzante Milan. Lei chi toglierebbe? Chi toglierei tra Ibra e Patto? Ma insomma, intanto bisogna vedere poi che sia proprio così, cioè che ci sia un'incompatibilità totale. Io credo che Ibrahimovic sia abbastanza incompatibile con chi si fa largo con grande personalità al suo fianco e soprattutto con chi non si mette al suo servizio. E ho anche l'impressione, si sa, perché basta guardare il suo curriculum, di grande campione, per carità, per vedere che più la sua permanenza in una società si prolunga e più la leadership non è sua, deve essere sua, che è un concetto un po' diverso. Se parliamo di età, certamente ha più futuro davanti a sé Pato. Se parliamo di costanza di rendimento, Ibrahimovic è poi più, perché Pato, insomma, tra infortuni e amnesie, fin qui non ha mai avuto un rendimento certo. Potenzialmente è un grande campione. Sarà un problema che affronterà il Milan verso fine stagione, che non mi sembra grave, ma al momento, ma che si comincia a intuire, no? Possa creare qualche problema di coabitazione. Gianni, provincia Lucca, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, da Capanne di Careggine, dove è nato Marco Tardelli. Ah, Capanne è proprio il paese suo, è vero? No, sì, in realtà è nato lì Marco. No, e niente, la ringraziamo a nome di tutti i tifosi juventini, perché un po' è quello che noi sosteniamo da tempo. E al di là di quello che può essere il sentire dei tifosi juventini e dei cori promoggi, al di là di calciopoli o non calciopoli, sta proprio lì il punto. La competenza specifica di Luciano Moggi era questa. Luciano Moggi, se ci fosse stato Luciano Moggi, dopo il Mondiale avrebbe venduto Buffon, perché uno di quei grandi campioni di cui parlava Marco Tardelli da vendere dopo il Mondiale era proprio Gigi Buffon, ma non perché non siamo amanti di Gigi, che è una gran persona, ma Gigi Buffon all'apice della sua carriera con la Juve in quelle condizioni ci avrebbe portato 70 milioni di euro, e con quei 70 milioni di euro avremmo ricostruito la squadra. Bene. Oggi Buffon, che stimiamo sempre, gran portiere, ormai non ha più mercato. E no, adesso che non abbia più mercato, no, non ha più quel mercato là, e i 70 milioni non dico che li dividi per 10, ma insomma li dividi per poco più di 10, insomma, no? Che per poco meno di 10 arrivi a prendere semmai una quindicina. Mi pare che Marco Tardelli, con molto gusto, è ancora in linea, Gianni? Sì, mi pare che con molto gusto abbia evitato di far nomi, no? Beh, poi me ne ha fatti qualcuno me ne ha fatto qualcuno nella pre-conversazione, ma non importa, il concetto era chiaro, era esattamente quello. Ha detto testualmente, me lo sono appuntato: bisognava vendere i campioni e reinvestire allora su giovani di valore. Credo che più chiaro di così non potesse essere. Credo che quando ha rivendicato nel consiglio di amministrazione d'allora della Juve una competenza specifica calcistica, a differenza di tutti gli altri, abbia detto una grande verità, e molti ascoltatori fanno notare la passione e il rammarico con cui Tardelli ha raccontato tutte queste vicende da juventino vero, come lui stesso per primo ha rivendicato. La Juve è sempre stata il mio sogno, lo ha detto non più tardi di 10 minuti fa. Ultimo intervallo di oggi per il traffico. Mentre continuo a orientarmi tra i messaggi, direi che è arrivato il momento, come ogni giorno, di mandare in onda la rubrica di Nicola Filippone. Sembra ieri. 2 marzo 1991. A 17 anni e 3 mesi, Ryan Giggs debutta in campionato con la maglia del Manchester United. Non è un esordio felice quello del ragazzo gallese, che viene mandato in campo da Ferguson per sostituire l'infortunato Dennis Irwin. I Red Devils, infatti, vengono sconfitti all'Old Trafford 2-0 dall'Everton. Andrà meglio la seconda presenza, il 4 maggio, contro il Manchester City, quando Giggs, schierato per la prima volta titolare, metterà a segno il gol partita. Dalla stagione successiva, il centrocampista originario di Cardiff entrerà in pianta stabile in prima squadra, diventando presto una pedina fondamentale. Nel 2008 Giggs, già protagonista di tanti successi con i Red Devils, batterà nel corso della finale di Champions contro il Chelsea il record di un'istituzione come Bobby Charlton, che aveva totalizzato 758 presenze ufficiali con la maglia dello United. Se ne parlava anche prima con Marco Tardelli, queste sono storie impensabili da noi, nel senso che già ormai è quasi impensabile che un calciatore giochi per 20 anni, come ha fatto e sta facendo ancora Giggs, con la stessa maglia, ma insomma in Italia qualche eccezione da questo punto di vista c'è ancora, ma che in quei 20 anni continui ad avere lo stesso allenatore, beh, questo è davvero impensabile, no? A casa nostra. Tra i messaggi ce ne sono molti che segnalano i principali errori commessi in questi anni. Marco da Massa Carrara, per esempio, dice: abbiamo regalato Trezeguet con le ginocchia 9 per prendere un suo coetaneo più scarso, e cioè Tony, più scarso, dice lui, Tony a gennaio. Poi io posso essere d'accordo, anzi sono d'accordo, ma non mi permetterei di usare queste espressioni se non citando un messaggio di un ascoltatore. Angelo da Pavia dice: ha sentito Tardelli, quando siamo stati in Serie B, ha detto, siamo stati, sono queste le persone che ci vorrebbero ancora la Juve per riportare identità, scrive Angelo da Pavia. C'è un altro pavese, Nello, che è collegato con noi, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, volevo fare i complimenti per la trasmissione, e io, come sono tifoso del Milan, avrei voluto il suo parere per il sabato Juventus secondo me adesso farà di tutto per vincere la partita, la Juventus, e questo non cambierà niente, e questo è il mio parere adesso. Beh, non cambierà niente, insomma, intanto gli farebbe male, insomma. Io credo che Credo che la Juventus oggi sia conciata davvero abbastanza male e che non sarà semplice risollevarsi e fare una partita d'orgoglio come ha fatto per esempio meno di un mese fa con l'Inter, vincendola, perché allora aveva qualcosa in più comunque di quanto non abbia oggi, anche sul piano dell'organico. Però è vero che l'esame dei risultati della Juventus di quest'anno è molto semplice, cioè ha giocato buone o in qualche caso anche grandi partite con le grandi e ha toppato invece in maniera certe volte davvero imbarazzante contro le piccole. Quindi, dato che il Milan una piccola non è sicuro ed è una grande, ha una delle ultime occasioni per provare a farsi perdonare o comunque per provare a riprendere slancio da un risultato di prestigio. Quindi immagino che per il Milan non sarà una passeggiata, perlomeno la Juventus non ha nessuna intenzione di far fare una passeggiata al Milan, poi bisogna vedere se ci riuscirà. Mauro è in linea invece dalla provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Grazie per avermi chiamato. Volevo salutare Tardelli, che io sono tifoso bianconero da nelle ossa proprio. Sono 44 anni, niente, volevo solamente, se era in corrivina, fare una domanda, ma non c'è più. Comunque niente, lo saluto e volevo sapere, io mi ricordo di Tardelli quando fece due gol in un famoso derby col Torino, che poi segnò anche Scirea e Bredi, stavano appena 2-0. Niente, volevo solo chiedere a lei se cosa ne pensa. Io sarei contento se tornasse Marcello Lippi, perché per me Lippi è stato il massimo nella Juve di Moggi, Giraudo. Niente, posso sapere da lei cosa ne pensava se ci fosse un ritorno di Lippi. Ma io credo che sarebbe una tentazione sbagliata, sinceramente. Credo, ma magari poi accadrà, ma magari accadrà e magari invece sarà la panacea. Non credo, cioè. Lippi ha già fatto una volta un ritorno alla Juventus ed è stato abbastanza felice. Il primo ritorno in panchina, poi ne ha fatto un altro occulto da suggeritore lo scorso anno, prima dei mondiali sudafricani, ed è stato l'inizio della tragedia. Credo che un terzo ritorno ufficiale, ma un quarto in assoluto in realtà, non sia da augurare alla Juventus, perché un conto è la nostalgia e un conto è invece la realtà. Non la vedo un'operazione come un'operazione positiva, anche se poi il calcio ci ha abituato a sorprese di ogni genere. Claudio è in linea da Padova, buongiorno. Sì, signor Garanzini, buongiorno. E innanzitutto un saluto a Tardelli, perché anche se sono milanista avevamo di sempre davanti agli occhi le sue esultanze dell'82. E poi io l'altra sera ho visto la partita e volevo un suo parere su Van Bommel. Mi è sembrato di rivedere così a grandi linee il vecchio Albertini. Sì, anche perché davanti c'era un Napoli disastroso, onestamente, nel senso che Van Bommel fin qui era proprio servito molto a poco nel Milan. L'altra sera invece ha fatto, direi che complessivamente, prima che salisse in cattedra Pato, probabilmente era stato il migliore in campo, perché già era stato il più presente e anche il più pronto a inserirsi nel primo tempo, ed era stata sua l'unica occasione da gol del primo tempo, sia pure nata da un rimpallo. E poi nel secondo è stato quello che ha forzato il pressing iniziale, insomma, no? e che ha fatto saltare il banco in realtà con quel paio di iniziative in area che hanno poi portato al calcio di rigore. Quindi l'altra sera è certamente positivo. Credo sia un'esperienza limitata nel tempo, se non ho capito male. Van Bommel ha un contratto di 5 mesi, quindi il Milan lo ha preso, ma questo diciamo che è un'informazione proprio di prima mano, non solo quella del contratto di 5 mesi, ma anche il fatto che Van Bommel non sarebbe mai arrivato senza l'infortunio abbastanza serio ad Ambrosini, che si è aggiunto e sommato a quello di Pirlo. C'è spazio ancora, sì, per un intervento prima di salutarci, e arriva da Roma, firmato Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Alessio Garanzini. Dica. Una sola domanda semplice: Del Neri è da Juve o no? Lasciando perdere la persona, che può essere una brava persona, un grande allenatore, ma se è da Juve o non è da Juve, solo questo. Da Juve attuale, secondo me, certamente sì. Da Juve dei tempi di cui parlava Tardelli, probabilmente no. A parte il fatto che mi piace questo messaggio firmato Roberto, che dice: cosa costava continuare ancora con Tardelli visto il tenore di certi interventi successivi? Beh, insomma, a parte che gli interventi successivi, caro Roberto, non mi sembrano, cioè ne ho sentiti di più disastrosi in un passato anche recente. Il fatto è che Tardelli comunque è stato tre quarti d'ora al telefono con noi e mi sembra che fosse già stato abbastanza cortese. Credo che la dimensione attuale della Juventus, che è quella appunto di Udinese, Palermo, Sampdoria l'anno scorso, oppure di più perché arrivò in Champions League, sia una dimensione da diversa da quella del passato, e quindi Del Neri secondo me ha pieno titolo. Poi ascoltando Tardelli prima, io penso che prima che di allenatori, non io penso, Tardelli pensa che prima che di allenatori sia una questione soprattutto di dirigenti e poi di giocatori, e come sempre noi tendiamo in Italia a sopravvalutare il ruolo dell'allenatore. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, ci sentiamo domani, buon pomeriggio a tutti.